Oggi leggiamo l'Incipit delle anime grigie di Philippe Claudel. Non so bene da dove cominciare. È molto difficile. C'è tutto questo tempo andato, che le parole non riacciufferanno mai. E così i volti, i sorrisi, le ferite. Ma bisogna pure che io cerchi di dire ciò che da 20 anni mi rode l'animo. I rimorsi e le grandi domande. Bisogna che apra il mistero a coltellate, come se fosse una pancia, e che vi immerga le mani, anche se questo non cambierà niente di niente. Se mi domandassero per quale miracolo conosco tutti i fatti che racconterò, risponderei che li so, punto e basta. Li so perché mi sono familiari come la sera che scende e il sole che sorge, perché ho passato la vita a volerli radunare e ricucire, per farli parlare, per ascoltarli. Una volta era un po' il mio mestiere. Farò sfilare non poche ombre. Una soprattutto sarà in primo piano. Apparteneva a un uomo che si chiamava Pierre-Ange Destinat. Fu procuratore a Vaux per oltre 30 anni ed esercitò il suo mestiere come un orologio meccanico che non si scompone e non si ferma mai. Una grande arte, se si vuole, e che non ha bisogno di museo per mettersi in luce. Nel 1917, al momento del caso, come è stato chiamato da noi sottolineando la maiuscola con sospiri e mimiche, lui aveva più di 60 anni ed era andato in pensione un anno prima. Era un uomo alto e magro, che somigliava a un uccello freddo, maestoso e distante. Parlava poco, impressionava molto, aveva occhi chiari che parevano immobili, e labbra sottili, senza baffi, fronte alta, capelli grigi. V dista da noi una 20 chilometri. Una 20 chilometri nel 1917 erano già un mondo, soprattutto d'inverno, soprattutto con quella guerra che non finiva più e portava un gran fracasso sulle nostre strade. Camion e carretti a mano e fumi puzzolenti assieme a tuoni e a migliaia, perché il fronte non era lontano, anche se lì dove eravamo era per noi una sorta di mostro invisibile, un paese nascosto. Destinat veniva chiamato in modi diversi secondo i luoghi e secondo le persone. Nella prigione di V la maggior parte degli ospiti lo soprannominavano Bevisangue. In una cella ho visto addirittura un disegno inciso con il coltello su un portone di quercia che lo raffigurava. Era peraltro molto somigliante. Va detto che l'artista aveva avuto tutto il tempo di ammirare il modello durante i 15 giorni del suo lungo processo. Noi altri, quando si incrociava Pierre-Ange Destinat, per strada lo chiamavamo signor procuratore. Gli uomini si toglievano il cappello e le donne modeste piegavano il ginocchio. Le altre, le grandi, quelle che appartenevano al suo mondo, abbassavano il capo lievissimamente, come gli uccellini quando bevono nelle grondaie. Tutto ciò lo sfiorava appena. Lui non rispondeva, o così poco che si sarebbe dovuto portare 4 occhialetti ben lucidati per vedere le sue labbra muoversi. Non si trattava di disprezzo, come pensava la maggior parte della gente. Era, credo, semplice distacco. Nonostante tutto, c'era stata una giovane che l'aveva quasi capito, una ragazza di cui tornerò a parlare, e che dal canto suo, ma solamente per sé, lo aveva soprannominato Tristezza. Forse tutto è successo per colpa sua, ma lei non ne ha mai saputo niente. Un procuratore al principio del secolo era ancora un gran signore e in tempo di guerra, quando una sola sventagliata di mitraglia falce una compagnia compatta di marcantoni pronta a tutto, chiedere la morte di un uomo solo e incatenato aveva un che di artigianale. Non credo che lui agisse per crudeltà quando pretendeva e otteneva la testa di un poveraccio che aveva accoppato un impiegato postale o sbuzzato la suocera. Lui si vedeva davanti l'idiota, i ferri ai polsi, fra due agenti, e chissà se lo notava. Guardava per così dire attraverso di lui, come se l'altro non esistesse già più. Destinat non si accaniva contro un criminale in carne e ossa, ma difendeva un'idea, soltanto un'idea, l'idea che si era fatto del bene e del male. Il condannato urlava alla pronuncia della sentenza, piangeva, tempestava, a volte levava le mani al cielo come se di colpo rammentasse il catechismo. Destinà non lo vedeva già più. Chiudeva i suoi appunti nella cartellina, 4-5 foglietti sui quali aveva steso la requisitoria, con la sua scrittura minuta e raffinata, inchiostro violetto. Una manciata di parole scelte con cura che il più delle volte avevano fatto fremere l'uditorio e meditare i giurati, quando non dormivano. Poche parole che erano bastate a costruire un patibolo in 4-4-8, più in fretta e con maggior sicurezza di quanto avrebbero potuto fare due falegnami in una settimana. Non ce l'aveva col condannato, non lo conosceva più. A riprova l'ho visto con i miei occhi alla fine di un processo in un corridoio. Destinà esce col suo bel ermellino ancora sulle spalle e la sua aria da catone e incrocia il futuro marito della vedova, che si rivolge a lui querulo. Il poveretto aveva ancora gli occhi arrossati dalla pronuncia della sentenza e sicuramente in quel momento si sentiva amaramente delle fucilate tirate nella pancia del suo padrone. «Signor procuratore», geme, «signor procuratore», e Destinà lo guarda negli occhi come se non vedesse i gendarmi e le manette, e gli risponde posandogli la mano sulla spalla. «Sì, amico mio, ci siamo già conosciuti, no? Cosa posso fare per servirla?» Senza alcuna canzonatura, in piena naturalezza, l'altro non si capacitava. Era come una seconda condanna. Dopo ogni processo, Destinà andava a pranzo a Rébillon, davanti alla cattedrale. Proprietario è un omone con la testa di insalata belga, gialla e bianca, una bocca piena di denti guasti. Si chiama Bourrache. Non è molto furbo, ma il senso del denaro è la sua natura. Non è da biasimare. Porta sempre un grembiulone di tela azzurra che gli dà un'aria di botte attillata. Una volta aveva una moglie che non lasciava mai il letto perché malata di languore, come si dice dalle nostre parti, dove è facile vedere gente che confonde le nebbie novembrine con il proprio smarrimento. Adesso è morta, non tanto per la malattia cui alla fin fine doveva essersi affezionata, quanto per ciò che è successo, per il caso. A quel tempo le tre figlie di Bourrache erano dei piccoli gigli, ma con uno spunto di sangue schietto che ne faceva risaltare l'incarnato fino a incendiarlo. L'ultima non aveva ancora 10 anni, non ha avuto fortuna, o forse ne ha avuto molto, chissà. Le altre due avevano soltanto dei nomi, Aline e Rose, mentre tutti chiamavano la piccina Bella. E c'era chi, sentendosi in animo poetico, si spingeva fino a Bella di giorno. Quando tutte e tre erano in sala, a portare le caraffe, i litri di vino, i coperti, in mezzo a decine di uomini che parlavano e bevevano forte, mi pareva a guardarle che fossero dei fiori dimenticati in una taverna malfamata. E la piccina, soprattutto, mi sembrava così fresca che l'ho sempre considerata lontanissima dal nostro mondo. Quando Destinà entrava nel ristorante, Bourrache, che è un abitudinario, gli ammaniva sempre la solita frase, senza cambiare una virgola. «Un altro scorciato, signor procuratore!» Destinà non rispondeva. Poi Bourrache lo faceva accomodare. Destinà aveva il suo tavolo, a lui riservato tutto l'anno. Uno dei migliori. Non ho detto il migliore perché questo, ce n'era uno rasente all'enorme stufa di maiolica che dominava attraverso le tende a ghirigori tutta la piazza del palazzo, questo dunque era per il giudice Mierck. Era un cliente fedele, veniva 4 volte la settimana. Lo rivelava la sua pancia, bombata fino alla parte superiore delle cosce, e anche la sua pelle, rovinata dalla cuperosi, come se tutti i borgogna bevuti andassero a radunarsi lì in attesa di essere sloggiati. A Mierck non piaceva molto il procuratore, l'altro lo contraccambiava di buon grado. Credo addirittura che quanto scrivo sia ancora a dir poco, ma li si vedeva salutarsi gravemente, togliendosi il cappello, come due uomini che tutto oppone, ma ciò nonostante spartiscono la stessa quotidianità. La cosa più strana era che Destinà andava di rado a Rébillon e tuttavia aveva il suo tavolo, che restava dunque vuoto per tre quarti dell'anno. E ciò costituiva un bel mancato guadagno per Burrasci, il quale però non l'avrebbe dato per niente al mondo, nemmeno nei giorni di fiera grande, quando tutti i contadini della regione andavano a rimpizzarsi lì dopo aver tastato la groppa delle vacche, bevuto un litro di grappa da levar del sole, prima di andare a sfogarsi nel bordello di Comare Nein. Il tavolo restava vuoto anche quando si respingevano i clienti. Un giorno Burrasci ha perfino buttato fuori un mercante di bestiame che lo voleva a ogni costo e non si è mai capacitato di quel rifiuto. Meglio un tavolo da re senza il re che un cliente seduto coi piedi pieni di letame. Ecco cosa mi ha detto Burrasci un giorno che lo punzecchiavo. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do do do do do, chibum chibum, do do do do do, chibum chibum, do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do do do do do, chip, chip, boom, do do do do do, chip. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips, do do do do do, chibum chibum boom, do do do do do, chibum chibum boom, do do do do do. Primo lunedì di dicembre, qui da noi, 1917, un tempo da Siberia. La terra schioccava sotto i tacchi e il rumore echeggiava fin dentro la nuca. Ricordo la grande coperta che avevano gettato sul corpo della piccina, che si è subito inzuppata, e i due sbirri Berfush, che tra un tracagnotto con orecchie di cinghiale coperte di peli, e Grospel, un alsaziano, la cui famiglia era espatriata 40 anni prima, che lo sorvegliavano accanto alla proda. Un po' in disparte c'era Brichou, un ragazzone panciuto, i capelli rati come peli di scopa, che si triturava il panciotto non sapendo bene cosa fare, se rimanere lì o andarsene. Era stato lui a scoprirlo in un'acqua mentre andava al lavoro. Era scritturale in capitaneria, lo è ancora, solo che ha 20 anni di più, e il cranio liscio come una banchisa. Non è molto grosso un cadavere di 10 anni, per giunta bagnato da un'acqua invernale. Berfush ha tirato un angolo della coperta, poi si è soffiato nelle mani per scaldarsi. È apparso il viso di Bella di giorno. Dei corvi sono passati senza far rumore. La piccina somigliava a una principessa da fiaba, con le labbra illividite e le palpebre bianche. I suoi capelli si mescolavano alle erbe bruciate dai mattini di gelo. Le sue manine si erano strette sul vuoto. Quel giorno faceva così freddo che i baffi di tutti si coprivano di neve, a mano che sbuffavano aria come tori. Battevano le sole per far tornare il sangue nei piedi. In cielo delle oche matte tracciavano cerchi. Sembrava che avessero perso la strada. Il sole si stringeva nel suo manto di nebbia che si andava sfilacciando sempre più. Pareva che anche i cannoni fossero gelati. Non si sentiva niente. «Forse è la pace, finalmente», azzardò Crossbail. «Pace un cavolo», sbraitò il suo collega, lasciando cadere la lana bagnata sul cadavere della piccina. Si aspettarono i signori di V. Alla fine arrivarono, accompagnati dal sindaco che aveva la faccia dei brutti giorni, quella che si ha quando si viene tirati giù dal letto a ore poco cristiane e per giunta con un tempo da non mandar fuori il cane. C'erano il giudice Mierk, il suo cancelliere di cui non ho mai saputo il nome ma che tutti chiamavano Crostoso, per un brutto ecchezzeme che gli divorava la metà sinistra della faccia. Tre gendarmi graduati che si davano un sacco di aria. E poi un militare. Non so cosa ci facesse lì il militare. In ogni caso non lo si è visto a lungo. Dopo poco ha strabuzzato gli occhi e hanno dovuto portarlo al caffè Jacques. Quel bell'imbusto non doveva aver mai visto una baionetta, salvo forse da un armaiolo. Si capiva dalla sua divisa stirata, in modo impeccabile, tagliata come per un manichino. Probabilmente faceva la guerra accanto a un bel fornello di ghisa, seduto in una grossa poltrona di velluto, e poi la raccontava. Venuta sera, sotto stucchi dorati e gocce di cristallo, a ragazzi in veste da ballo. Una flute di champagne in mano, tra le ariette imparruccate di un'orchestra da camera. Il giudice Mierk, sotto il cappello Kronstadt, e la sua aria pasciuta di ghiottone era un mastino. Le salse al vino potevano colorargli naso e orecchie, ma non li intenerivano. Tolse la coperta con le sue mani e guardò Bella di giorno, a lungo. Gli altri aspettavano una parola, un sospiro, dopotutto la conosceva bene. La vedeva tutti i giorni, o quasi, quando andava a rimpizzarsi al Rébillon. Lui guardò il corpicino come se fosse un sasso, un pezzo di legno, senza cuore, con occhi gelidi come l'acqua che scorreva lì a due passi. «È la piccina di Bourrache», gli fu mormorato all'orecchio con l'aria di dire «poverina, aveva appena 10 anni, si rende conto, soltanto ieri le portava ancora il pane e le lisciava la tovaglia». Lui girò su se stesso di colpo, fronteggiando che aveva osato parlargli. «E con questo? Cosa vuole che importi? Un morto è un morto. Per noi altri prima il giudice Mierk era il giudice Mierk, punto e basta. Aveva il suo posto e se ne stava lì. Non era molto amato, ma gli si mostrava rispetto. Ma dopo ciò che disse quel primo lunedì di dicembre davanti alla spoglia inzuppata della piccina e soprattutto il modo in cui lo disse, brusco, un po' ridente, come negli occhi la scintilla del piacere di avere un delitto, finalmente, uno vero, perché sul fatto che lo fosse non c'erano dubbi, in quel periodo di guerra in cui tutti gli assassini latitavano nella vita borghese per meglio sfogarsi sotto la divisa, dopo la sua risposta, dunque, il paese gli dette le spalle, d'un tratto, e pensò a lui soltanto con disgusto. «Bene, bene, bene, bene», riprese cantinellando, come se stesse per andare a giocare ai birilli o a una battuta di caccia. Poi gli venne fame. Un'ubbia, un capriccio, gli occorrevano delle uova bazzotte. «Bazzotte, non alla coq», precisò, «uova subito», e lì, sulla sponda del piccolo canale, a 10 sotto zero, accanto al cadavere di Bella di giorno, anche questo ha turbato non poco. Uno dei tre gendarmi, che tornava dall'aver messo giù il fifone gallonato, ripartì di gran carriere, agli ordini per trovargli delle uova più che uova dei piccoli mondi, così li chiamava il giudice Mierk, rompendo il guscio con un minuscolo martelletto d'argento cesellato, che tirava fuori apposta ogni volta dal taschino. Giacché veniva preso spesso da questo ghiribizzo che gli imbrattava i baffi di giallo dorato. Aspettando le uova, perlustrò metro per metro i dintorni con lo sguardo, fischiettando, le mani unite dietro la schiena, mentre gli altri continuavano a cercare di scaldarsi. E parlò. Non lo fermavano più. Nella sua bocca non c'era più Bella di giorno, anche se lui stesso l'aveva sempre chiamato così. L'ho sentito con le mie orecchie. Ora diceva la vittima, come se la morte, oltre che togliere la vita, si portasse via anche i bei nomi dei fiori. È stato lei a ripescare la vittima? Brochu, giovane, continuava a cincischiare il panciotto come se volesse nascondervisi. Fece di sì con la testa e l'altro gli domanda se ha perso la lingua. Brochu, giovane, risponde di no, sempre con la testa. Tutto ciò lo si sente, irride il giudice che comincia a perdere il buon umore, messogli addosso dall'assassinio, tanto più che il gendarme tarda e le uova non arrivano. Allora Brochu, giovane, elargisce dei particolari, l'altro ascolta mormorando, bene, bene, bene, bene, di tanto in tanto. Passano i minuti, continua a far freddo, le oche sono infine sparite. L'acqua scorre, un lembo della coperta la sfiora, la corrente lo scuote, lo rovescia, lo muove. Si direbbe una mano che batte il tempo, che sprofonda e ricompare, ma questo il giudice non lo vede. Ascolta il racconto di Brochu giovane, non ne perde una virgola, ha scordato le uova. In quel momento l'altro ha ancora le idee chiare, ma in seguito ci farà sopra un romanzo a furia di passare da un caffè all'altro per raccontare la storia e farsi offrire da bere da tutti gli osti. Finirà ubriaco fradicio verso mezzanotte, sbraitando il nome della piccina, con dei tremoli febbrili e ripisciando nei pantaloni tutti cotti, trincati e dritti a manga. Alla fine della nottata, gonfio come un porcello, riusciva soltanto a mimare a gesti davanti a un pubblico nutrito. Bei gesti, seri e tragici, che il vino rendeva ancora più eloquenti. Le chiappone del giudice Mier che straboccavano dal suo seggiolino da caccia. Un treppiedi in pelle di cammello e legno d'ebano che ci aveva molto impressionato le prime volte che l'aveva esibita, ricordo delle colonie. Aveva passato 3 anni a inseguire dei ladri di polli e granaglie verso l'Etiopia o giù di lì. Lo piegava e dispiegava senza posa sul luogo delle indagini, ponzandoci sopra come un pittore accanto a un modello, o giocorellandoci come se fosse un bastone da passeggio, a modo di generale a corto di battaglie. Il giudice aveva ascoltato Brochu mangiando le uova, perché alla fine erano arrivate, portate in un grande canovaccio bianco e fumante dal gendarme servile, che era giunto di corsa cercando di mantenere la posizione di attenti. I baffi del giudice erano ora gialli e grigi, i gusci giacevano ai suoi piedi. Lui li schiacciò con il tacco mentre si puliva le labbra con un fazzolettone di batista. Si aveva l'impressione di sentir rompere le ossa di vetro da una coppia di uccelli. I frammenti dei gusci si incollarono al suo stivale come minuscoli speroni, mentre lì accanto, a pochi passi di distanza, Bella di Giorno riposava sempre nel suo sudario di lana zuppa, cosa che non aveva guastato le uova al giudice. Sono anzi sicuro che lui le aveva trovate ancora migliori proprio per quello. Brochu aveva finito il suo racconto. Il giudice se l'era gustato assieme ai suoi piccoli mondi, da buon intenditore. «Bene, bene, bene», disse alzandosi e rassettandosi lo sparato. Poi guardò il paesaggio come per scrutarlo nel fondo degli occhi, sempre rigido e col cappello ben dritto. Il mattino faceva scorrere la sua luce e le sue ore.